in primo piano. Buongiorno, buon mercoledì da Giulia Crivelli, bentrovati alla nostra rassegna stampa dei quotidiani che da ieri sono tornati in edicola dopo la pausa natalizia. Cominciamo come sempre dal Sole 24 Ore, anche se poi più tardi, verso le un po' prima delle 7:40, ci collegheremo con Mauro Meazza che ci spiegherà meglio che cosa oggi dobbiamo leggere religiosamente sul Sole 24 Ore. Ma il titolo principale, come ieri, è dedicato alla questione bancaria, che non è soltanto MPS. Sapete che ancora prima della pausa natalizia è stato annunciato questo fondo da 20 miliardi che serve per salvare tutte le banche, non soltanto MPS. Poi c'è stata la notizia subito dopo Natale dell'allarme della BCE, della lettera della BCE, della vigilanza della BCE, in realtà la vigilanza è una divisione particolare della BCE, cioè non è guidata da Mario Draghi ma da Daniel Nui, è arrivata questa lettera dove si dice che i 5 miliardi inizialmente previsti di ricapitalizzazione del Monte dei Paschi di Siena, secondo la BCE e secondo una direttiva che definisce questi parametri di ricapitalizzazione, invece devono essere 8,8. Ieri, il primo giorno dopo questa notizia, il Ministero del Tesoro non ha commentato. Ieri invece è arrivato un commento abbastanza secco che il Sole 24 Ore usa come virgolettato in prima pagina: fondo da 20 miliardi sufficiente per tutte le banche. Il commento è di Marco Ferrando e Moria Longo: le colpe del Monte e la linea dura della BCE. Sul Monte dei Paschi di Siena vi segnalo, richiamate in prima pagina e poi trovate tutto a pagina 6, un po' il meglio di quelle domande e risposte che abbiamo pubblicato negli scorsi giorni e la scorsa settimana, le domande proprio del risparmiatore, le domande del risparmiatore, le criticità sulla questione di MPS e non solo. Quindi la bussola del risparmiatore, dai bond subordinati ai conti correnti, le risposte ai quesiti. Vi segnalo anche, richiamata in prima pagina, un'intervista di Donatella Stasio al vicepresidente del CSM Giovanni Legnini, che fa un po' il punto di quali sono le priorità della giustizia nel 2017. Sapete che tra l'altro la riforma della giustizia è uno dei cantieri aperti. Per Legnini è ancora la lotta alla corruzione la priorità. La prima pagina del Corriere della Sera ha un titolo sempre su MPS, sempre su questa dichiarazione di ieri del Ministero del Tesoro, e anche in questo caso è un virgolettato: fondi sufficienti per MPS. La fotonotizia però è quello scatto che probabilmente molti di voi hanno visto nei telegiornali di ieri sera e che forse rivedremo anche oggi, quell'immagine della telecamera della Polizia di Stato che ha catturato il terrorista Anis Amri nell'atrio della stazione centrale di Milano venerdì scorso. Naturalmente per noi è impossibile riconoscerlo da questa fotografia, però le analisi della Polizia di Stato di questi fotogrammi delle telecamere di sicurezza hanno appunto dimostrato che si tratta proprio dell'autore della strage del 19 dicembre a Berlino, del mercatino dove è morta anche un'italiana i cui funerali sono stati l'altro ieri a Sulmona, la sua città natale in Abruzzo. Vi segnalo dalla prima pagina del Corriere della Sera anche un'intervista al ministro dell'Agricoltura Maurizio Martina che parla dei voucher. I voucher, sapete, sono quei buoni da 10 euro che vengono utilizzati per pagare lavori che in teoria dovrebbero essere appunto lavori a ore o lavori a tempo molto determinato e dei quali invece si è fatto abuso soprattutto in edilizia e in agricoltura. E da qui l'intervista a Maurizio Martina che dice: voucher d'ora in poi saranno vietati per l'edilizia e l'idea è di usarli, che vengano usati solo per studenti e pensionati. Naturalmente il problema è quello del controllo, di come controllare che veramente questo strumento confermato dal Jobs Act, ma in realtà introdotto già da precedenti riforme del lavoro, venga usato nel modo più corretto possibile e non per mascherare lavoro nero o per dare maggiore precarietà a lavori che già per loro natura precari sono. La Repubblica a sua volta titola su MPS: governo contro BCE, quindi più esplicito, più che usare il virgolettato del Tesoro, Repubblica lo interpreta. La fotonotizia però è dedicata al Colosseo, perché per Capodanno ci sarà un vero e proprio checkpoint e il Colosseo sarà difeso dalle camioncine blindate dell'esercito, naturalmente per per minimizzare il rischio di attacchi terroristici. Ci fermiamo però un attimo per una pausa sul traffico e ci ritroviamo subito dopo. In primo piano. Ancora buongiorno e buon mercoledì da Giulia Crivelli. Eravamo sulle prime pagine dei giornali, abbiamo visto come Sole 24 Ore, Corriere della Sera e Repubblica titolino tutti sulla vicenda MPS. In prima pagina sulla Repubblica c'è anche un articolo di Vittorio Zucconi, storico corrispondente di Repubblica dagli Stati Uniti, dedicato a Michelle Obama, il vuoto dell'America senza lo stile di Michelle. Quello che sostiene Vittorio Zucconi è che chiama questi ultimi giorni prima dell'insediamento ufficiale di Donald Trump a presidente degli Stati Uniti, chiama questi giorni gli ultimi giorni della Black Lady, e queste sono le prime righe. C'è un vuoto nel cuore della prossima America che Donald Trump non riuscirà a colmare con i lobbisti che sta chiamando al governo. È il vuoto che Michelle Obama lascerà dietro di sé tra un mese. Poi trovate tutto a pagina 15. Io ho in realtà un po' di dubbi su questa visione di Michelle Obama. Credo che sia un po' una visione europea più che americana. Come molti hanno sottolineato, negli Stati Uniti e nell'elezione di Donald Trump ha giocato molto anche la componente di razzismo che resta nella società americana. Insomma, ricordiamolo sempre, negli Stati Uniti la schiavitù è stata abolita nel 1865, e per quanto appunto strano possa sembrare a noi europei, la questione razziale è ancora molto importante. Quindi Michelle, sicuramente donna eccezionale e molto popolare in Europa e fuori dagli Stati Uniti, all'interno degli Stati Uniti non sarei così sicura come Vittorio Zucconi, per quanto, per carità, con tutto il rispetto, di uno che negli Stati Uniti ha vissuto molti anni. La prima pagina della Stampa invece ha un'apertura diversa, dedicata all'altra grande questione economico-finanziaria della vigilia di Natale e ancora di questa fine d'anno, cioè quella dell'attacco, possiamo chiamarlo così, della Vivendi, l'azienda controllata da Vincent Bolloré, il francese, un finanziere e imprenditore francese che è chiaramente interessato ad avere il controllo di Mediaset. In questo caso è l'apertura anche perché la Stampa ha intervistato il ministro dell'economia Carlo Calenda e sintetizza così l'opinione del ministro: è un'operazione non trasparente. E vi leggo appunto la risposta su questo, perché è interessante per vedere quali saranno le prossime mosse di questa sfida finanziaria, che però in qualche modo coinvolge anche il governo e le istituzioni come la Consob, che ha aperto un'inchiesta sulle prime fasi di questa scalata di Bolloré a Mediaset. A pagina 3 trovate l'intervista di Marco Zatterina a Carlo Calenda, che chiede appunto al ministro: la manovra di Vivendi su Mediaset vi dà dei pensieri? E Calenda risponde: dobbiamo rispettare le regole del mercato, accettare il caso, spesso positivo e normale, che uno straniero acquisti un'azienda italiana. Ciò che non è normale è come si sono verificati i fatti sinora. È stato tutto molto opaco e le intenzioni poco chiare. Dunque non vi piace, dice Zatterin. Il governo ha sui metodi di questa operazione un parere negativo, anche se questo non vuol dire che intendiamo stravolgere le regole del mercato o che ci sarà un intervento pubblico. E poi sulla differenza tra governo Gentiloni e governo Renzi, il ministro Calenda ricopre esattamente lo stesso ruolo, cioè ministro dell'economia, dello sviluppo economico, Calenda risponde: c'è continuità sostanziale di linea politica e di persone. Renzi e Gentiloni rappresentano la stessa cultura riformista. Molto è però cambiato dopo il referendum che avrebbe finalmente aperto la Terza Repubblica. Non è andata così. Il mondo nuovo è difficile da capire e certamente abbiamo commesso molti sbagli. Il punto è che non mi sembra una soluzione tornare alla Prima Repubblica. Dobbiamo trovare un modo diverso per coinvolgere le persone su un'agenda che deve dare l'impressione di essere fatta solo per le eccellenze, per chi ce la può fare. La prima pagina del Messaggero invece, come Corriere e Repubblica, titola al titolo principale dedicato a MPS, anche in questo caso sottolineando lo scontro tra il Ministero del Tesoro, che viene definito in pressing sulla BCE, la questione, come dicevamo all'inizio, che l'aumento di capitale inizialmente previsto dal governo italiano, e che tra l'altro continua a essere quella la linea del governo, era di 5 miliardi, mentre la BCE ne chiede 8,8. La fotonotizia però è dedicata a un CIE, cioè i centri di identificazione ed espulsione. Questa era una notizia che c'era anche sul Sole 24 Ore di ieri, e cioè che il Viminale starebbe pensando di riaprire questi CIE per i clandestini, perché potrebbero essere appunto un modo per identificare, per perfezionare il processo di identificazione che è di nuovo sotto accusa e sotto osservazione dopo la vicenda del terrorista che ha firmato l'attentato di Berlino del 19 dicembre scorso, che appunto è riuscito sostanzialmente a eludere qualsiasi tipo di controllo. E il CIE di Lampedusa, per esempio, lo ospitò, e però, come vediamo poi, nonostante poi anche le autorità di Berlino avessero indicato questo tunisino come persona a rischio di radicalizzazione, in realtà ha potuto muoversi liberamente per molto tempo. Vi segnalo anche dalla prima pagina del Messaggero un'intervista a Massimo Colomban, che sapete è il neo assessore alle partecipate, fortemente voluto dai vertici del Movimento 5 Stelle, cioè Beppe Grillo e Davide Casaleggio, per aiutare Virginia Raggi a accelerare il processo di riforma, se vogliamo, delle partecipate di Roma, di quelle due in particolare, quella che si occupa della raccolta dei rifiuti e dello smaltimento dei rifiuti, e poi l'azienda che si occupa del trasporto pubblico. E quello che dice Colomban è: servono anni per fare ripartire Roma, ma occorre anche un dialogo col governo. E con la Raggi abbiamo delle differenze di età e di analisi. Quindi, insomma, non sono proprio le migliori premesse, però tutti speriamo che trovino appunto un dialogo sia col governo sia tra di loro. L'Unità ha un titolo ancora diverso sulla questione dei voucher. Sapete che l'11 gennaio la Corte Costituzionale si esprimerà sull'ammissibilità dei quesiti per i quali la CGIL ha raccolto più di 3 milioni, 3 milioni e mezzo di firme per indire un referendum su tre punti del Jobs Act, che potrebbero essere, quindi, se il referendum desse l'esito che appunto che la CGIL cerca, cioè un no a questi tre articoli. Tra questi, però, quello più importante è quello sui voucher. E il titolo dell'Unità è: che fine faranno i voucher? Verifica sui nuovi obblighi di tracciabilità, torna l'utilizzo solo per prestazioni occasionali. Queste correzioni naturalmente sono un tentativo di evitare comunque il referendum, o se il referendum ci fosse, comunque di convincere gli italiani che andranno a votare che questa norma particolare sui voucher, una volta modificata, non va rigettata. Il titolo del giornale è Sotto torchio l'uomo di Renzi, quindi un titolo molto diverso da quello degli altri quotidiani. Il riferimento è a Luca Lotti, che nel governo Renzi era sottosegretario alla presidenza del Consiglio, in questo governo Gentiloni è ministro dello sport, è indagato per rivelazione di segreto d'ufficio su un'indagine che coinvolgeva la Consip, al vertice della quale c'è un uomo di Renzi, uno definito parte del giglio magico. La Consip, sapete, è la centrale di acquisti della pubblica amministrazione, quindi sicuramente un luogo dal quale passano contratti importantissimi dal punto di vista economico, ma anche per il funzionamento della pubblica amministrazione. L'articolo principale è di Alessandro Sallusti, il direttore del giornale, e riguarda questa vicenda. Vi leggo l'ultima parte della prima pagina, poi trovate anche servizi di cronaca su quanto è trapelato sull'interrogatorio alle pagine 4, 5, 6. Renzi, oggi lo sappiamo con certezza, ha anteposto convenienze politiche personali ai doveri del suo ufficio. L'incapacità ha fatto il resto e ora i cocci sono di Gentiloni e di tutti noi. Ci manca solo di scoprire, come ipotizzano i PM romani, che il tempo e il modo di fare gli affari loro i membri del ciglio magico l'avevano trovato, visti i precedenti di quel clan, Blanca Etruria. Il riferimento è alla banca, che tra l'altro è oggetto di un salvataggio al quale dovrebbero servire quei famosi 20 miliardi di cui parlavamo prima, e quindi dice Sallusti, visti i precedenti di quel clan, non mi stupirei, quindi diciamo una condanna già preventiva. A Lotti e a quello che secondo Sallusti è stato il modo di governare di Renzi. La fotonotizia però è dedicata al premier giapponese Abe, che come avete sentito anche nei GR ha fatto visita a Pearl Harbor. È viene definita una mossa storica perché, benché non sia andato a presentare le scuse per quell'attacco, quello fu l'inizio scatenò l'entrata degli Stati Uniti nella seconda guerra mondiale. Era il 7 dicembre del 1941. Per gli americani credo fu veramente uno shock, perché era la prima volta che venivano attaccati sul loro suolo durante la prima guerra mondiale. Naturalmente non era successo. L'ultima prima pagina, prima di una breve pausa, è quella di Libero che vi segnalo. Anche in questo caso il titolo è su MPS, però un risvolto diverso. Proprio ieri qui con Angelo Maria Perrino parlavamo di come la crisi di MPS, di come questo gigantesco passivo nei conti di MPS si sia determinato, come si sia arrivati a questa montagna di crediti non esigibili. E Angelo Maria Perrino, direttore di Affari Italiani, diceva: io credo che, visto che noi italiani, come del resto sottolinea Libero, salvare MPS costerà 250 euro a famiglia. Noi italiani avremmo il diritto di sapere a chi vennero concessi questi crediti che ora si rivelano inesigibili. Secondo Libero, ci sarebbero anche nomi illustri, e questo è il titolo di Libero: De Benedetti, Marcegaglia e C. MPS regalava soldi ai ricchi. Tutti i finanziamenti allegri della banca del PD, così viene definito Monte dei Paschi, è un po' una definizione così incompleta, diciamo, che non torneranno mai indietro. La fotonotizia però è dedicata alla cantante Jackie Evancho, che è una cantante americana, è molto giovane, è nata a Pittsburgh il 9 aprile del 2000. Dopo tanti rifiuti, compreso quello, lo sappiamo, di Andrea Bocelli, invece questa giovane cantante ha deciso che sì, canterà nel giorno dell'inaugurazione dell'insediamento ufficiale di Donald Trump come presidente degli Stati Uniti. Ci fermiamo però per qualche minuto, ci ritroviamo subito dopo e ci sarà tra pochi minuti con noi anche Mauro Meazza. In primo piano. Ancora buongiorno e buon mercoledì da Giulia Crivelli. Vediamo velocemente i titoli delle altre prime pagine che ci mancavano. Il Fatto Quotidiano titola su Monte dei Paschi: a furia di rinvii, adesso la troica è più vicina. Il riferimento è alla vicenda, lo ricorderete, delle banche greche e della Grecia in generale, che fu appunto messa così sotto tutela dalla troica, cioè Fondo Monetario Internazionale, BCE e Commissione Europea. Vi segnalo anche, e poi magari ne leggiamo un pezzo, un articolo di Massimo Fini in prima pagina sul Fatto, che parla della recente sentenza che ha condannato a 6 anni Roberto Formigoni, il senatore Roberto Formigoni, e difeso per esempio da Renato Farina. È interessante questo rimpallo così tra l'articolo di Massimo Fini di oggi e poi Renato Farina, che oggi scrive un altro articolo sulla prima pagina di Libero, di cui poi vi leggerò alcune righe. La Verità invece se la prende con Daria Bignardi, direttrice di Rai 3, colpevole di aver mandato in onda questo programma Stato Civile, che ha avuto più del 5% di share, secondo il parere di Massimo Gandolfini, che sapete è quell'esponente dei diritti delle famiglie cosiddette tradizionali. La RAI dà lezione homosex nella fascia protetta, quindi l'accusa è di aver dato uno schiaffo, testuale scrive La Verità, in faccia a milioni di famiglie che pagano il canone, perché in questo programma si è parlato anche delle nozze gay. Il foglio lo vediamo dopo. Il Giorno, la stangata delle tariffe, con un calcolo di quanto si pagherà per i rincari vari che ci aspettano nel 2017, benché, come abbiamo visto ieri, in realtà si sia in deflazione, quindi probabilmente gli stipendi e le pensioni non aumenteranno. La stangata delle tariffe, il calcolo del giorno è di quasi 1.000 euro in più a famiglia. Il manifesto Cuffiette Rotte, il riferimento è alla vicenda Almaviva, la grandissima società del call center che, secondo l'ultimo accordo raggiunto ieri, ci sarà un taglio del 55% dei 1.666 lavoratori di Roma. E, non del posto di lavoro, ma il taglio dei salari, e verranno accettati anche i controlli a distanza che all'inizio erano stati rifiutati dai sindacati. Ultima pagina prima di collegarci con Mauro, quella dell'Avvenire, che titola sull'incontro storico di ieri, sulla visita storica del premier giapponese Abe a Pearl Harbor. Mosse americane, perché in realtà poi Avvenire collega anche l'altra questione, che è un po' proprio a metà tra la presidenza Obama e quella Trump, dell'alta tensione tra Israele e gli Stati Uniti. Ne abbiamo parlato ieri, dopo che gli Stati Uniti si sono astenuti, si dice dietro indicazione chiara di Obama, dal votare contro la risoluzione dell'ONU che condanna gli insediamenti di Israele. Ma ora però andiamo da Mauro, perché sono ansiosa di sapere che cosa ci consiglia oggi dal Sole 24 Ore. Buongiorno Mauro. Buongiorno Giulia, ben ritrovata. Allora, vorrei cominciare naturalmente dalla questione MPS che, come hai detto e come vedi, occupa molte delle nostre prime pagine. Ma soprattutto, diciamo, al di là delle questioni più tecniche di questo dibattito, per così dire, con la BCE, se servono 8 miliardi, se servono un po' meno miliardi, soprattutto consiglierei le risposte che la redazione, in particolare quella di Plus, il nostro settimanale di finanza che esce ogni sabato, dà ai lettori, ai correntisti MPS che scrivono appunto alla redazione. Le trovi nelle primissime pagine del Sole 24 Ore, queste risposte sono alcune, naturalmente abbiamo selezionato quelle che possono essere di interesse comune. Ad esempio molti ci scrivono: ci sono rischi per i conti correnti, allora ripetiamo anche oggi, poi trovate più in dettaglio nelle risposte pubblicate sul Sole 24 Ore, fino ai 100.000 euro c'è la garanzia, i depositi fino ai 100.000 euro c'è la garanzia dello Stato, questo mi sembra importante in questa fase un po' di confusione. Approfitto, Mauro, per chiederti, per girarti una domanda di un ascoltatore. Intanto ringrazio anche chi, nonostante l'ora e il giorno così un po' semifestivo, sta mandando messaggi al 349-238-6666 o SMS o WhatsApp, e che chiede: vorrei sapere perché MPS non può essere considerata la longa manus finanziaria del PD. Perché io prima, insomma, ho definito un po' troppo semplice la definizione che alcuni giornali danno di MPS, come appunto la banca del PD. Non mi sembra che si possa proprio dire così. Trovo che effettivamente tu abbia ragione, Giulia. Sarebbe molto, come dire, semplice e anche quasi rassicurante pensare a un crollo di sistema, una difficoltà di sistema legato a un partito, a un altro partito, ma qui in realtà è una questione, mi verrebbe da dire, banalmente finanziaria, cioè c'è un'esposizione molto forte, come sappiamo, dal punto di vista dei crediti deteriorati, c'è la necessità di ricapitalizzare la banca. Qui non è più una questione di PD o di qualsiasi altro partito, è proprio una questione del sistema bancario. Monte dei Paschi è una banca importante per tutto il sistema bancario italiano, e non solo italiano, direi anche europeo, e quindi da questo si spiega anche l'attenzione con cui la Banca Centrale Europea ha seguito questo piano di ricapitalizzazione, che ripetiamo serve perché ci sono delle sofferenze in bilancio, non perché tra l'altro ci ieri dei legami con uno o con l'altro partito. Ieri sul Sole, ma so che l'è stato messo subito anche sul sito, c'era la bellissima storia raccontata da Cesare Peruzzi di tutto quello che è successo negli ultimi anni a Monte dei Paschi e che ha portato al disastro di oggi. Quindi appunto, per chi vuole così fare un po' di capire veramente come si è arrivati, o cercare di capire come si è arrivati qui, sul sito del Sole trovate questo articolo del nostro collega Fiorentino Cesare Peruzzi. Ecco, poi ti volevo dire, stanno debuttando delle cose interessanti verso il nuovo anno. Sai che nelle pagine di Norme e Tributi, che tu leggi come si conviene naturalmente religiosamente, ecco, sai che nelle pagine di Norme e Tributi noi stiamo presentando queste due pagine ogni giorno per informare su quello che andrà a cambiare con il 2017. Allora, oggi in particolare parliamo del regime per cassa e parliamo anche dei nuovi bilanci. Oh, la particolarità di queste due pagine è che l'una è fatta, diciamo, un po' più, un po' meno per professionisti, per specialisti della materia, e l'altra invece è più dedicata proprio al pubblico dei professionisti. Allora, io so che tu sai benissimo cos'è il regime per cassa, quindi non ti voglio annoiare. Non mettermi alla prova. Il regime, comunque, insomma, è una cosa importante perché significa che tu, ad esempio, pagherai le imposte, paghi le imposte solo quando effettivamente incassi, e si distingue per questo dal regime per competenza. Ma ora non ti voglio tediare con cose che conosci nei dettagli. Ma chissà, chissà, capisce. Chiedo scusa. Ecco, invece sui nuovi bilanci, naturalmente, come ben sai, si tratta del passaggio ai nuovi criteri che sono dettati dal decreto legislativo 139, tu mi insegni, che è molto importante perché, ad esempio, comprende la soppressione di una sezione del conto economico più altre imputazioni che vanno modificate. Ma vabbè, adesso chiedo scusa, non vorrei portare vasi a Samo e nottole ad Atene, come si dice. Insomma, la questione della lettura dei bilanci è importante, no? Perché è un po' come le statistiche, vanno letti e poi va interpretati. C'è anche sulla prima pagina di Finanza, scusa se ti rubo il lavoro, quell'articolo di Vittorio. Che io ho letto avidamente, infatti, tu hai letto avidamente. Sì, di Vittorio Carlini, su come vengono definiti in modo diverso a seconda dei paesi e delle regole alcuni dati che noi pensiamo abbiano delle definizioni universali, ma non è proprio così. Oserei dire che quello di Vittorio Carlini di oggi, che appunto comincia sulla prima pagina di Finanza, è un articolo da meditazione, perché effettivamente a volte ci si perde un pochino in questi vari indicatori che vengono utilizzati, a volte in modo non proprio univoco, anche tra uno Stato e l'altro. Ecco, allora meditiamo un attimo su questo articolo di Vittorio Carlini, leggendo, come si conviene, avidamente le pagine di Finanza. Ci sono poi delle altre cose che sono al debutto, ad esempio l'assegno di ricollocazione. Allora, qui bisogna tornare al Jobs Act, alle modifiche per i sostegni per chi perde il lavoro. Allora, sta per partire, sono in arrivo le prime 32.000 lettere da parte appunto dell'Agenzia Nazionale. Ne riferisce Claudio Tucci nelle pagine di Imprese e Territori, che tu leggerai naturalmente in modo scrupoloso, cioè scrupolosamente. Beh, poi continua lì l'inchiesta sulla manifattura, no? Visto che comunque inizia, sappiamo, insomma, ricordiamolo sempre che noi siamo il secondo paese manifatturiero d'Europa e che questa è la nostra grande forza in realtà. Benissimo, ti ringrazio della precisazione. Ti vorrei anche dire che tra le cose che si preparano, ma che ancora non conosciamo tutte nei dettagli perché il provvedimento non c'è, c'è l'abituale mille proroghe. Eccolo. Ora tu sai benissimo cos'è il mille proroghe, lo dico a beneficio dei pochi ascoltatori che non lo sapessero. È costume delle normative italiane ogni anno intervenire per spostare qualche data che è diventata, ohimè, non più rispettabile, non nel senso che ha perso di reputazione, ma nel senso che non si fa in tempo a fare quello che era richiesto. E allora, sul mille proroghe si esibiscono oggi Marco Mobili e Giovanni Parente, ne trovi i dettagli a pagina 8. Che ci sarà dentro il mille proroghe? Perché il mille proroghe, sai, è un po' un piatto ricco di tanti sapori, e allora bisogna rinviare, ad esempio, le sanzioni per il SISTRI. Sai cos'è il SISTRI? No, mi sfugge. Io pensavo già alle valvole, ma quelle... No, le termovalvole le aspettiamo anche lì il rinvio delle sanzioni che dovrebbero entrare in vigore per chi non si è adeguato. Dovrebbero, perché il termine scade il 31 dicembre, ma se il mille proroghe interviene, le sanzioni verranno spostate. Invece il SISTRI? No, il SISTRI è il sistema di tracciabilità elettronica dei rifiuti. È un sistema, come dire, che fatica un pochino a prendere quota perché sono diversi anni che viene prorogato. Tra l'altro pende sul SISTRI anche un ricorso al TAR Lazio, ma insomma, per fartela molto breve, diciamo che anche lì si tratta di fermare, di prorogare l'entrata in vigore delle sanzioni. Ma tra le altre cose, lo dico perché so che gli amici commercialisti, fiscalisti sono abbastanza in ambasce per la questione, si pensa di rinviare o comunque di modificare il debutto delle nuove comunicazioni IVA, che molto li hanno fatti impermalire. Hanno anche scioperato. Sì, saranno, appunto, hanno già deciso anche dei giorni di sciopero per febbraio, per fine febbraio, Adesso si pensa ad un ulteriore rinvio, passando appunto dal debutto previsto per luglio a un debutto previsto per settembre. Senti, Vedremo che cosa ci sarà nel. prima del traffico volevo chiederti un commento al titolo della Gazzetta dello Sport di oggi che è Juve che botti. E vabbè, è sotto, sempre questione di calciomercato, Inter che sogni. Stai sognando anche tu? Beh, direi che in questo momento io e i fratelli nerazzurri ed io siamo abbastanza portati al sogno, avendo una realtà, come dire, che ancora non corrisponde ai nostri desideri. Già con l'amico Peter Bescapè, insomma, si ragionava di questo momento, diciamo che lui mi sfotteva, ecco. Quindi questo non è bello, però tocca ammetterlo. Molte altre cose ti vorrei dire, ti dico anche che si passerà all'online, al digitale, per le denunce di Ah, successione e sì. di donazione. Lo trovi nelle pagine di norme e tributi, tu le leggerai religiosamente, così consiglio di fare a tutti gli ascoltatori. E nel frattempo, cara Giulia, cari ascoltatori, come sempre, traffico! In primo piano. Ancora buongiorno e buon mercoledì da Giulia Crivelli. Dopo aver visto le prime pagine dei giornali, magari guardiamo qualcosa all'interno dei giornali. Però, come vi avevo anticipato, in prima pagina del Fatto Quotidiano c'è questo articolo di Massimo Fini che poi continua a pagina 13, intitolato Quelli che, puntini puntini, la forca è mobile. E è dedicato all'articolo che ha pubblicato Libero di Renato Farina sulla condanna a 6 anni di Roberto Formigoni, che è senatore della Repubblica. Il giorno in cui Roberto Formigoni è stato condannato a 6 anni per corruzione nel campo della sanità, Renato Farina ha scritto su Libero un pezzo dal titolo Perseguitato dalla giustizia, che non si sa se definire comico, grottesco, esilarante o piuttosto protervo. Renato Farina è il noto Betulla, che faceva il giornalista insieme all'agente dei servizi segreti. Il giorno in cui la cosa venne a galla, una collega di Libero lo trovò sconfortato e piagnucolante, appoggiato a uno stipide. Il problema è, le disse, che ho preso anche dei soldi, però li ho versati in beneficenza. Insomma, non lavorava solo per i servizi, ma ne era anche al soldo. Lo sconforto durò poco. L'articolo appunto prosegue perché la tesi di Massimo Fini è che appunto non si possa parlare di accanimento giudiziario nel caso di Roberto Formigoni, che ricordiamo comunque non è una sentenza definitiva questa di 6 anni per corruzione nella sanità. Aspetteremo la sentenza definitiva, che peraltro Formigoni ha detto che è sicuro di essere assolto. Ma vi dicevo, Renato Farina anche oggi si esercita su Libero e è una pagina intera, anche in questo caso richiamata in prima pagina, poi trovate tutto a pagina 5, intitolata L'Italia li ha chiamati eroi, per la sinistra sono bastardi. Il riferimento è ai due agenti, Cristian Movio e Luca Scatà, che hanno, sapete, fermato il terrorista Amri Andi, e uno dei due poi lo ha ucciso perché il terrorista aveva tirato fuori la pistola. Tra l'altro era, sapete, armata, pronta a sparare, si è scoperto dopo. Questi due agenti avevano sui loro profili Facebook e Instagram alcune frasi che erano inneggianti al fascismo. Sono state poi cancellate queste frasi. C'è anche, per esempio, una foto di Luca Scatà che faceva il saluto fascista. Questa cosa, come potete immaginare, ha suscitato alcune polemiche. Come purtroppo succede su internet, sono volati insulti pesantissimi, da qui appunto anche la parola bastardo. E però l'articolo di Renato Farina non menziona nemmeno queste frasi, che purtroppo erano scritte, quindi forse per completezza di informazione bisognava riportarle. E vi leggo questa domanda retorica che fa Renato Farina: i due sono fascisti, dunque non possono essere eroi. Beh, forse in effetti, se fossero fascisti, non so, fascista e eroe nella stessa frase, non so. Ecco, mi sembra solo che riportare una vicenda così, correndo dietro alla facilità con cui su internet vengono etichettate le persone, quando sulla carta stampata si avrebbe l'occasione di fare dei ragionamenti un pochino più tranquilli, mi sembra appunto un'occasione perduta. Ma questo era appunto l'articolo di oggi di Renato Farina. Vi segnalo che il Corriere della Sera continua la sua inchiesta all'interno all'interno del PD per capire quanto è grave la crisi del PD. La regione analizzata oggi è la Liguria, che sapete alle ultime regionali è andata al centrodestra. Il presidente della regione è Giovanni Toti, che ha vinto con il 34,51% dei voti, sconfiggendo la candidata del centrosinistra. La pagina di oggi di Marco Imerisio è intitolata Il partito cannibale, dilaniato dalle lotte intestine, non conta la vittoria ma che il rivale interno perda. E temo che questo non valga solo per la Liguria, per il PD, ma non valga solo per il PD, vediamo anche tutto quello che sta succedendo come lotte interne al Movimento 5 Stelle. Una pagina intera, la pagina 29 del Corriere della Sera, firmata da Giusy Fasano, al centro c'è una bellissima foto scontornata di un ghepardo, e perché si scopre che tra i molti animali a rischio c'è anche il ghepardo. C'è addirittura, in questo caso si parla di corsa per la salvezza, perché il ghepardo è a rischio estinzione. Soprattutto sì, viene cacciato, certo, però è anche il suo habitat che viene minacciato naturalmente da noi, dagli Homo sapiens. Così la scomparsa del loro habitat e l'uomo minacciano i mammiferi più veloci del mondo, che sapete, anche se per brevi distanze, possono raggiungere i 112 km/h. Un'intervista del leader della FIOM, la parte che rappresenta i metalmeccanici della CGIL, Maurizio Landini, segretario generale della FIOM dal 2010, un'intervista rilasciata a Repubblica sui voucher. Come abbiamo detto, il referendum per abolire i voucher è stato promosso proprio dalla CGIL con una raccolta di 3 milioni e mezzo di firme. Il Landini ribadisce: alto là di Landini al governo, i voucher non si cambiano, come abbiamo visto vorrebbe fare il governo, vanno proprio aboliti del tutto. E dice anche: il referendum del 4 dicembre, quello sulla riforma costituzionale, in realtà è stata una bocciatura delle riforme di Renzi, tra cui naturalmente il Jobs Act. Un'altra lunga intervista la concede Roberto Speranza. Alla Stampa ne concede una anche al Manifesto, sapete che è l'ex capogruppo del PD alla Camera e che si è dimesso perché, tra le molte ragioni che ha spiegato all'epoca delle dimissioni, anche che non era d'accordo con la riforma costituzionale. Il titolo di questa intervista di Carlo Bertini è «Basta col PD amico dei potenti, Gentiloni può durare solo se affronta la questione sociale». Speranza sta per partire per un tour dell'Italia, perché, come forse sapete, all'ultima riunione della direzione del PD ha annunciato che si candiderà alla guida del partito, in alternativa naturalmente a Matteo Renzi. Una interessante inchiesta della Stampa, la trovate a pagina 12 e 13, sulla quello che viene definito il grande affare da 300 milioni del senza glutine. Sapete che il glutine è quasi veleno per chi soffre di celiachia, e l'Italia in realtà ha avuto proprio un boom di prodotti, e le diagnosi di celiachia aumentano del 10% l'anno, e così anche i prodotti che sono pensati e commercializzati apposta per le persone che soffrono di questa malattia. Naturalmente il dubbio è che forse le diagnosi a questo punto siano fin esagerate, perché forse, insomma, dove erano tutti questi celiaci fino a poco tempo fa? Forse ci sono anche, lasciano intendere i dati raccolti dalla Stampa, forse ci sono altre patologie che sono state riclassificate come celiachia, forse anche con un po' troppa fretta. Vi dicevo l'intervista sul Messaggero, che resta il giornale che più ci dà aggiornamenti sulle questioni romane. L'intervista di Massimo Colomban, assessore alle partecipate, viene intitolata, pagina 9 del Messaggero, Roma ci servono anni ma anche un codice etico. Altri approfondimenti sulla questione Roma, perché davvero mi sembra che a intermittenza venga trattata dai giornali, ma alcune cose sono tutt'altre che risolte. Per esempio, a pagina 40 il Messaggero ci ricorda bilancio SOS debiti, a rischio 120 milioni, stallo sui fondi ATAC, cioè l'azienda dei trasporti, e sappiamo chi è stato a Roma lo sa per esperienza, chi non c'è stato recentemente lo sa perché lo raccontano le cronache tutti i giorni, sappiamo quanto è in crisi il trasporto locale a Roma. Matteo Orfini, presidente del Partito Democratico, dà un'intervista invece all'Unità e torna sulla questione della riforma della legge elettorale per evitare di andare al voto con una vecchia riforma o comunque per rifare un calendario del voto. Adesso vedremo tra l'altro se verranno convocati altri referendum con le decisioni della Corte Costituzionale sull'ammissibilità dei quesiti. L'intervista viene intitolata "Tutti a un tavolo per cambiare la legge elettorale oppure si va al voto". Un'altra interessante intervista su quella questione diplomatica delicatissima che è lo scontro tra in questo momento tra Stati Uniti, soprattutto tra l'amministrazione Obama e Israele, dopo che gli Stati Uniti si sono astenuti dal votare contro la risoluzione ONU che condanna Israele per gli insediamenti. Sull'Unità trovate un'intervista a Saeb Erekat, che è il capo negoziatore palestinese, questi infiniti negoziati con Israele per cercare finalmente di trovare pace in quell'area del mondo. Il titolo dato all'intervista: sulle colonie l'ONU difende la legalità, Israele però la viola ogni giorno. E sempre sull'Unità invece questa notizia, non so se se ne sentiva davvero il bisogno, ma le Winx, quelle fatine molto simili a Barbie che sono diventate cartoni animati, adesso all'Unità, spiega il suo creatore, diventeranno anche un film vero e proprio. Purtroppo era l'ultima segnalazione per oggi, anche se ci sono i giornali oggi sono ricchissimi, quindi vi consiglio davvero di sfogliarli, e soprattutto anche nelle pagine culturali ci sono tanti approfondimenti. Ringrazio Peter Bescapè in regia, che anche molti ascoltatori salutano, e da me Giulia Crivelli ancora un buon mercoledì e appuntamento per chi vorrà a domani.